Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La mia posizione rispetto alle vicende legate alla Campania è molto semplice. La magistratura faccia il suo corso. Noi abbiamo molta fiducia nella magistratura italiana. L'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre confermato e lo diciamo in tutte le sedi. Allo stesso tempo il Presidente della Regione ha la titolarità, il diritto e mi permetto di dire il dovere di governare quella terra. Finalmente, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Renzi si è espresso su De Luca, ha detto che ha il diritto dovere di governare la Campania. Poi sentiremo che ha accreditato anche un certo riconoscimento per quello che ha fatto come governatore, come presidente della regione e la capacità che ha di risolvere i problemi che ancora restano. Quindi c'era stato silenzio, tutti dicevano come mai Renzi non interviene su questa vicenda, c'è l'imbarazzo nel PD che effettivamente c'è anche dopo la vicenda Marino, però questo ha detto. Torneremo poi a parleremo in modo approfondito, perché sapete che il venerdì è sempre il momento di fare il bilancio della politica della settimana, di notizie appunto legate alla politica ce ne sono moltissime. Ieri abbiamo parlato delle dichiarazioni di Berlusconi da Porta a Porta, no? Dove ha detto non solo che con l'Italicum ci sarebbe un ballottaggio tra PD e 5 Stelle, che se vincessero 5 Stelle sarebbe un danno per l'Italia e per gli italiani, ma ha anche detto che nel patto del Nazareno, famoso patto tra lui e il Presidente del Consiglio Renzi, ci sarebbe stata anche la modifica alla legge Severino, quella che lo ha costretto a lasciare il suo incarico di senatore, a stare fuori dalla politica almeno fino al 2019. Però Renzi ha smettito, ha detto sono barzellette, ha sbagliato Matteo, riferendosi a Matteo Salvini. E poi c'è l'apertura di Fassina, ne ha parlato qui al Movimento 5 Stelle, insomma moltissime notizie, torneremo a parlarne tra poco. E poi c'è il giallo di Brescia, c'è una svolta nella vicenda della scomparsa dell'imprenditore nel bresciano, anche di questo ne parleremo poi con un ospite qui che ci racconterà un po' la vicenda e gli ultimi sviluppi qui effetto notte. C'è il meteo, c'è la nazionale, insomma ci sono tantissime cose come al solito. Voi potete commentare le notizie, non ne ho una in particolare questa sera, questa puntata, ma se volete potete per esempio mandare le vostre riflessioni sull'intervento di Renzi a proposito di Vincenzo De Luca. E secondo voi, ecco, c'è stato un doppio pesismo tra il comportamento nei confronti di Vincenzo De Luca e invece quello verso Ignazio Marino da parte del PD? Per i messaggi 349-238-6666, per i commenti invece sulla pagina Facebook di Effetto Notte, è lì per voi giorno e notte. Adesso vi sintetizzo la giornata. Economia, l'Italia cresce meno delle attese ma il governo è fiducioso, il Consiglio dei Ministri stanzia fondi per Bagnoli, Terra dei Fuochi, Giubileo e Post Expo. De Luca indagato, Renzi dice ha il diritto dovere di governare in Campania, il governatore ribadisce io e la mia regione siamo parte lesa. Il processo escort a Bari condanna 7 anni e 10 mesi per Tarantini. Il giallo dell'imprenditore scomparso nel bresciano, il suo operaio è morto avvelenato dal cianuro. L'ebreo accoltellato a Milano, prosegue la caccia all'uomo, il presidente Mattarella chiede di raddoppiare la vigilanza. Terrorismo, missile americano contro Jihad John, sarebbe stato ucciso il boia dell'ISIS ma manca la conferma. Orrore in Germania, in una casa in Baviera trovati i corpi di 8 neonati, la madre in fuga sospettata di averli uccisi. Scuola, cortei contro la riforma in varie città, oggi scontri e feriti a Napoli. Allarme carni, Federalimentare sta valutando di citare per danni l'OMS per la grave imprudenza dimostrata. Calcio, nazionale stasera in amichevole a Bruxelles contro il Belgio. Quindi dall'economia italiana, la crescita del PIL, del prodotto interno lordo, è leggermente inferiore alle attese, ma è comunque il terzo trimestre positivo, così ha detto il Presidente del Consiglio sui dati Istat. Per Forza Italia invece l'effetto Renzi è già finito. È un terzo trimestre deludente rispetto alle attese e quello messo nero su bianco dall'Istat. Il prodotto interno lordo si ferma infatti allo 0,2%, una frenata dopo il più 0,3% del secondo e il più 0,4% del primo trimestre 2015, un risultato inferiore a quanto anticipato dagli analisti e dallo stesso Istat che indicavano un più 0,3%. Bene la domanda interna, male il mercato estero, la base della performance. Quanto al dato tendenziale, ossia anno su anno, più 0,9%, il più alto dal 2011, ovvero da più di 4 anni. Una striscia molto positiva, ma certo bisogna fare molto di più, commenta il presidente del Consiglio Renzi. Da Palazzo Chigi ammettono dunque la delusione, ma guardano con fiducia all'ultima parte dell'anno, confermando la possibilità di poter chiudere allo 0,9%. Servirà una una crescita dello 0,43, spiegano dal Tesoro, un dato a portata di mano vista la fiducia dei consumatori e delle imprese. Critiche tuttavia le opposizioni, l'Italia frena, l'effetto Renzi è finito, dicono da Forza Italia. Di sorpresa negativa parlano le parti sociali. Ci vorranno 5 anni per tornare ai livelli pre-crisi, ricorda la Confesercenti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento di fondi per la Terra dei Fuochi, ma anche per il Giubileo, per il polo scientifico che sorgerà sull'area dell'Expo. 900 milioni di euro in tutto per 12 interventi sono i numeri di quello che il Premier Renzi ha ribattezzato decreto Happy Days nel provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. 200 milioni sono destinati a Roma per gli interventi legati al Giubileo, 50 milioni vanno invece alla bonifica dell'area di Bagnoli, 150 alla Terra dei Fuochi, altri 150 al dopo Expo e ancora 100 milioni alla promozione dello sport nelle periferie, 100 al servizio civile, 50 alle zone colpite dalle ultime emergenze maltempo, 30 milioni alla Sardegna per la continuità territoriale, 10 a Reggio Calabria, 10 all'export, 25 al tax credit per il cinema e altrettanti all'edilizia popolare. Approvato anche un disegno di legge di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura, via libera da Palazzo Chigi poi a 2 decreti legislativi che prevedono la depenalizzazione di una serie di reati minori. Su quello di immigrazione clandestina il governo diviso ha deciso di lasciare la parola alle Camere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito invece dell'inchiesta che coinvolge il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, Renzi, lo avete sentito prima presentando le misure a favore della Terra dei Fuochi di Bagnoli, ha detto: siamo fiduciosi nella magistratura, De Luca ora governi, se ne è capace, ne ha il diritto e anche il dovere. E oggi De Luca ha commentato: ho la sensazione che alla fine di questa montagna di polemiche e avventure giornalistiche avremo solo una montagna di chiacchiere, invece qualcosa di preoccupante, dice De Luca. Un tentativo di pressione o di ricatto nei confronti della regione. In ogni caso io e la regione siamo parte lesa, ribadito. Ecco, su questo vi chiedevo stasera come domanda, e potete rispondere sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure inviando un sms al 349-238-6666. Secondo voi il PD e Renzi hanno tenuto un atteggiamento da due pesi e due misure nei confronti di Marino rispetto a quello che hanno tenuto nei confronti di De Luca? Io intanto procedo mentre voi riflettete. Il processo delle escort a Bari, il Tribunale di Bari ha condannato a 7 anni e 10 mesi Giampaolo Tarantini, a 16 mesi Sabina Began, la perugina cosiddetta delle feste organizzate dall'ex Presidente di Consiglio Berlusconi. I due sono tra i 7 imputati del processo escort ed erano accusati a vario titolo di associazione a delinquere, induzione e sfruttamento della prostituzione. Ma ce lo racconta meglio Raffaella Calandra, che saluto. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, ciao a te e ai nostri ascoltatori. Sì, queste erano le accuse. In realtà dopo un anno di dibattimento ai protagonisti, a cominciare al protagonista Giampaolo Tarantini, l'accusa che è rimasta, è caduta l'impostazione dell'associazione a delinquere, è rimasto il reclutamento. In sostanza, secondo i giudici di Bari, Tarantini avrebbe reclutato quelle ragazze che portava nelle case di Berlusconi dal 2008 e il 2009, Palazzo Grazioli, Villa Certosa, Arcore, nella speranza di entrare nelle grazie appunto dell'allora premier e ricevere in cambio appalti in Finmeccanica, nella protezione civile, casomai anche una candidatura in Forza Italia. Questo è l'impianto accusatorio che ha retto e che secondo i giudici Tarantini avrebbe reclutato 20 delle 26 ragazze di cui si parlava. Di cui 26. C'era la famosa D'Addario. Che senti Raffaella, però la condanna appunto a 7 anni e 10 mesi per un reato del genere, che per carità è grave, non è stata forse è passata particolarmente severa, no? Mi sembra. A volte neanche gli stupratori o gli uxoricidi danno certe condanne. Come mai? È una condanna codice alla mano, nel senso che appunto Tarantini è stato condannato per 20 episodi di reclutamento della prostituzione. Quindi si dice in gergo tecnico con la continuazione, cioè è il numero degli episodi che fa salire così tanto la pena, cioè i giudici sono partiti dalla pena base per un episodio che è di 4 anni e calcolando che si tratta di 20 episodi per cui lui è stato calcolato, per cui è stato condannato, diciamo il computo finale fa sì che si arrivi a 7 anni e 10 mesi come è stato, qual è appunto la condanna per Tarantini. Questo si chiama appunto la continuazione, che non vuol dire moltiplicare per 20, perché ovviamente per gli altri altri episodi il caso diminuisce, però Tarantini è stato condannato per appunto reclutamento, e questo fa sì anche che le parti civili, compresa Patrizia D'Addario, che come sempre oggi era in aula, che poi a conclusione della sentenza, adesso spiegherò il perché, ha anche ingerito tanti farmaci, tanto da arrivare in codice rosso in ospedale, le parti civili non hanno visto riconosciuto un risarcimento, nessun risarcimento neanche per Patrizia D'Addario, che fece appunto scoprire tutto il caso con le sue registrazioni delle notti con Berlusconi. E poi dal suo punto di vista fu danneggiata, però insomma non vengono risarcite per Vengono risarcite, perché staremo a vedere chiaramente le motivazioni, ma è facile dedurre che secondo i giudici non sono state raggirate, non c'è stata un'induzione insomma alla prostituzione, ma hanno scelto, poi in quanto escort e quindi diciamo quanto insomma ammettevano già il fatto di dover offrire una prestazione, quindi erano consapevoli di quello che andavano a fare. Esatto. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, ciao. E invece, passando ad altro, sulle notizie dall'estero, c'è ancora mistero sulla possibile fine del terrorista islamico Jihadi Johnny, l'uomo che appare in molti video in cui vengono uccisi gli ostaggi sgozzati, no? Ostaggi occidentali. In un primo tempo era dato per morto, colpito da un drone americano, poi la Casa Bianca ha detto al momento non siamo in grado di confermare i risultati dell'operazione. Arrivano varie notizie contrastanti. Secondo il direttore dell'osservatorio siriano, invece, sarebbe stato polverizzato addirittura Jihadi Johnny da un drone dilaniato da un'esplosione. In Germania una macabra scoperta c'è stata: sono 8 i corpi dei neonati rinvenuti in un appartamento a Fallenfels, un piccolo centro nel nord della Baviera, in quello che si profila il più grave caso di infanticidio multiplo nella storia della Germania del dopoguerra. Lo ha reso noto la polizia tedesca dopo che in mattinata aveva annunciato il ritrovamento dei resti, probabilmente di 7 neonati che poi sono diventati 8, e una donna di 45 anni, presumibilmente la madre, è ricercata. Notizie di nuovo sui italiani con la cronaca, con l'agguato di ieri sera a Milano nei confronti di un uomo ebreo. Non è chiaro se il movente sia legato al terrorismo di matrice islamica. L'uomo fortunatamente è fuori pericolo. È cosciente, in grado di parlare e non più in pericolo di vita, Nathan Graf, l'ebreo ortodosso accoltellato nel quartiere ebraico di Milano. Anche attraverso il suo racconto gli inquirenti cercheranno di fare chiarezza sul movente dell'aggressione. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha comunque deciso di rafforzare al massimo livello la sicurezza degli edifici frequentati dai membri della comunità ebraica di Milano, e una circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha invitato questori e prefetti di tutta Italia a intensificare la vigilanza e il controllo sui luoghi di culto e sugli obiettivi sensibili riferibili ad Israele e alla religione ebraica. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di tentato omicidio, senza per ora contestare l'aggravante dell'odio razziale. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, a capo del pool antiterrorismo e di contrasto ai reati cosiddetti politici. Il timore esiste, ma non sarebbero emersi al momento elementi collegabili all'antisemitismo, come conferma il copresidente della comunità ebraica di Milano, Milo Asbani. Non è conducibile a un fatto di quello che sta succedendo in Israele, dell'intifada, dei coltelli, eccetera. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dicevo poi che c'è una novità nel giallo dell'imprenditore scomparso nel Bresciano. Il suo operaio Giuseppe Ghilardini, trovato morto pochi giorni dopo la scomparsa dell'imprenditore, è morto avvelenato dal cianuro, e questo è l'esito dell'analisi del corpo che è stato ritrovato nel suo stomaco. Di questo poi, vi dicevo, ci occuperemo più tardi. E poi le aggressioni con l'acido. Martina Levato, interrogata nel processo su una serie di aggressioni appunto con l'acido, ha ammesso solo i lanci contro Pietro Barbini e Giuliano Tartarelli, mentre ha negato il blitz contro Stefano Savi e ha difeso Alexander Böcher, quello che sarebbe il suo complice, non rispondendo. E per quanto riguarda invece questa notizia paradossale che arriva da Genova, una donna che è stata picchiata per 24 anni dal marito, ha subito le sue violenze e ha chiesto, è riuscita finalmente dopo 24 anni a divorziare, ma il tribunale non le dà diritto a nessun risarcimento e neanche al mantenimento, perché dice ha taciuto per troppo tempo le violenze. Tra l'altro lei è madre di due figli. La scuola, oggi ci sono state le proteste di piazza in varie città contro il decreto legge buona scuola. Ci sono stati anche dei feriti, delle cariche a Milano e anche A Napoli un docente e un 18enne feriti con un manganello nel capoluogo lombardo. A Milano senza tensione invece a Roma la protesta che poi è finita a piazza del Pantheon. Allarme carni, Federalimentare sta valutando, vi ricordate l'allarme di qualche settimana fa dell'OMS che diceva che le carni insaccate rosse sono cancerogene e anche di diminuire il consumo di carne rossa. Federalimentare sta valutando di citare per danni l'OMS, dice, per la grave imprudenza dimostrata nella comunicazione relativa allo studio sulle carni rosse o trasformate, perché dice non è basato su basi scientifiche che ci penalizzano. Per chiudere questa prima parte sentiamo come sta andando la nazionale nell'amichevole contro il Belgio, da Dario Ricci che è lì a Bruxelles. Dario. Sì, buonasera dallo stadio di Re Valdovino di Bruxelles, siamo al 21esimo di gioco, 1-1 tra Belgio e Italia, una bella Italia subito in vantaggio, Roberta al terzo minuto con una bella azione orchestrata da Pellepo, il cross al centro di Florenzi, il velo di Edere, la conclusione di Candreva che ha battuto Mignolet, poi ancora lo stesso Candreva pochi minuti dopo all'ottavo è andato vicino al raddoppio, bravo ancora Mignolet a salvare questa volta in calcio d'angolo, due minuti dopo al 13esimo è arrivato però sempre su azione d'angolo e su errore della difesa azzurra il colpo di testa di Vertonghen che ha siglato l'1-1. Partita davvero particolare in questo che è l'ex Aizel, lo sai bene Roberta, al 39esimo, fra pochi minuti la gara si fermerà per ricordare con un minuto di silenzio le 39 vittime dello Juventus-Liverpool, sciagurata partita del 29 maggio 1985. Grazie Danici, è giusto ricordare, poi invece ci aggiorneremo ancora su questa partita che si svolge appunto in tranquillità e con la giusta competitività. Noi tra poco torniamo, cominceremo a fare il bilancio delle notizie politiche della settimana, il meglio o il peggio a seconda dei punti di vista della politica italiana di questa settimana, e poi con le altre storie, la cronaca, tra poco. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco ve le ricordo brevemente le notizie principali di oggi, intanto arrivano i vostri messaggi sulla domanda che vi facevo all'inizio, cioè se secondo voi il PD e Renzi stanno usando, diciamo, due pesi e due misure nei confronti di Marino e di De Luca. Dice questa ascoltatrice che non si firma, premetto che da romana delusa da Marino sono stata felice di averlo visto andare via, credo che il PD stia usando con De Luca un metro di giudizio diverso, forse perché davvero Marino sembrava un marziano, un corpo estraneo al suo stesso partito. Questo l'ha scritto un'ascoltatrice al 349-238-6666, poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, e poi c'è un altro ascoltatore che dice sì, Renzi sostiene Silura in base alle proprie convenienze, questo è Walter, e poi invece Lucio dalla Svizzera, perché sapete che Effetto Notte è ascoltato in tutto il mondo a livello globale, dice ottima trasmissione Effetto Notte, vi seguo, ma dice un altro ascoltatore, se erano consapevoli l'escort di cosa andavano a fare ad Arcore, dov'è il reato? E Walter scrive, caso Marino e De Luca, primo nessuno come consueto in Italia ha dato le dimissioni, nessuno dei due, secondo si rimanda sempre la soluzione alle indagini della magistratura. Poi continuerò con i vostri messaggi, tra poco il bilancio della politica di questa settimana, ma vi ricordo, se avete acceso solo adesso la radio anziché puntualmente alle 21, le notizie principali della giornata. Per l'economia l'Italia che cresce meno delle attese, ora serve uno sprint ma il governo è fiducioso, e poi Renzi che ha fiducia anche nei magistrati, dice a proposito della vicenda De Luca e a proposito del governatore, dice governi se ne è capace, ne ha diritto e dovere. Un missile americano contro Jihadi John, il boia dell'ISIS che sarebbe stato ucciso secondo alcune notizie, però manca la conferma. 7 anni e 10 mesi a Tarantini per la vicenda delle escort, vi ricordate le escort da Berlusconi, lui sarebbe stato il reclutatore, e poi l'ebreo accoltellato a Milano e caccia all'uomo, il presidente Mattarella chiede di raddoppiare la vigilanza. Proteste contro la buona scuola, vi dicevo c'è stata questa manifestazione in varie città, feriti e scontri a Napoli, a Torino bruciata la bandiera del PD, e poi il giallo della Bozzoli dell'azienda nel Bresciano, sarebbe morto per cianuro l'operaio Ghirardini. siamo al bilancio, come sempre venerdì, del meglio o del peggio della politica italiana. Sono tanti gli argomenti, la vicenda De Luca, che il presidente del PD Orfini ha definito vicenda dai tratti ancora abbastanza oscuri, abbiamo sentito ieri, è anche un caso, tra l'altro, che dopo quello di Ignazio Marino crea molto imbarazzo nel PD, anche se oggi Renzi si è pronunciato, come avete sentito, dopo il silenzio di questi giorni. Poi l'apertura di Stefano Fassina, ex PD e anche vice ministro dell'economia del governo Renzi, ora confluito in Sinistra Italiana, il gruppo di cui fa parte anche SEL, l'apertura nei confronti del Movimento 5 Stelle sul possibile sostegno al loro candidato in vista delle amministrative, è stato anche qui Fassina, poi lo sentiremo. Offerta poi, come avete sentito, anche respinta al mittente dal Movimento 5 Stelle, che ha detto non ci piacciono le ammucchiate. Poi la manifestazione della Lega a Bologna, alla quale ha partecipato Berlusconi con diverse critiche anche all'interno del suo partito, e il desiderio di Berlusconi di rimettersi in campo e di creare una convergenza tra i vari partiti di centrodestra, e le dichiarazioni che Berlusconi poi ha fatto ieri a Porta a Porta, in particolare quella che ha scaturito più polemiche, relativa al patto del Nazareno, che avrebbe contenuto una modifica alla legge Severino. Insomma, un sacco di cose, ne parliamo questa settimana con Lina Palmerini, che saluto. Ciao Lina. Ciao, buonasera. Commentatrice politica del Sole 24 Ore. Senti, direi di partire dalla vicenda De Luca, no? Che è quella un po' dominante, Lina. Abbiamo ricordato più volte in questi giorni perché è indagato De Luca, anche se è una vicenda piuttosto complessa, e cominciamo a sentire come si è difeso lui. Credo di aver dato lavoro ai giornalisti italiani più di Rupert Murdoch. Mi aspetto di essere nominato cavaliere del lavoro, per quanto lavoro vi ho dato. E questo è il personaggio, poi sentiamo un'altra parte. Io non sono a conoscenza di nulla, di nulla, di nulla. Io sono parte lesa, io e l'istituzione che rappresento. Sono parte lesa in questa vicenda. Poi qui effetto note, c'è stato in questi giorni Gennaro Migliore, napoletano, deputato del PD ex SEL, che ha corso anche per la regione Campania, dove poi ha vinto De Luca. Non ho motivo di dubitare in questo momento, quando gli elementi probatori non sono ancora emersi con chiarezza, delle parole che ha pronunciato Vincenzo De Luca, al di là del tono, magari dell'inclinazione che lui ha sempre a dare una coloritura alle sue dichiarazioni. Cioè, se non esiste nessun contatto e nessuna conoscenza, bisognerà chiarire molto rapidamente di che cosa si è trattato, perché comunque è una vicenda che lascia l'opinione pubblica comunque sconcertata. E di questo parere anche abbastanza il ministro della giustizia Orlando, sentiamolo brevemente. Sarei cauto nel trarre delle conclusioni, perché mi pare che davvero siamo ai primi indizi. Purtroppo è una vicenda che colpisce anche la giurisdizione, da questo punto di vista non si può che essere rammaricati. Poi c'è Salvini che dice il PD ha più indagati che detenuti a San Vittore. Insomma, Lina, che ne pensi di questa vicenda? Ah, guarda, io direi innanzitutto oggi ha parlato il Premier, che ha difeso De Luca. Sì, l'abbiamo sentito all'inizio. Allora, ci sono due cose delle dichiarazioni di Renzi che mi hanno colpito. Cioè, la prima, lui dice facciamo fare la magistratura, se ci saranno iniziative giudiziarie ne prenderemo atto. E fin qui va bene, perché non è ancora chiaro come si è svolta quest'ultima parte, della vicenda. Certo. Quindi, l'altra frase che mi ha colpito è se è capace governi, di cui parlavi anche tu un attimo fa. Allora, il punto non è tanto se è capace governi, il punto è la capacità insieme al rispetto delle leggi, insieme al rispetto delle regole. Fino a prova contraria, la legge Severino è una legge in vigore e tutto nasce da lì, perché se il Partito Democratico, il segretario del Partito Democratico Renzi avesse detto chi ha dei procedimenti in corso non si può candidare alle primarie, perché il rischio poi di sospensione, decadenza, esattamente tutte le cose a cui è andato incontro De Luca, no? Perché c'è stata una sospensione, poi c'è stata la decisione di congelare questa sospensione, che è l'oggetto di quest'ultima vicenda giudiziaria. Sì. Dunque, secondo me il problema è quello, è la capacità, ma insieme il rispetto delle leggi. La legge Severino è quella, è la spina nel fianco di De Luca. Il peccato originale, chiamiamolo così, è quello. Io mi aspetto che Renzi dica una parola chiara sulla Severino. Non a caso, secondo me, Berlusconi ha porta a porta ha detto nel patto del Nazareno c'è la modifica. Sentiamo proprio quel... questo è un po' ambiguo, cioè, ancora Renzi. Infatti, sentiamo proprio quel passaggio, visto che lo citi, Lira. Quindi Renzi avrebbe dovuto modificare la legge Severino, sì, fare un intervento che avrebbe portato alla restituzione a me della partecipazione al Senato e della possibilità di partecipare alla vita politica con la negazione della mia incandidabilità. Questo faceva parte dei patti? Assolutamente sì. Invece Renzi ha smentito, ha detto una barzelletta, ha scambiato Matteo, si riferiva forse a Matteo Salvini. Brunetta invece ha insistito, no, c'era questa modifica all'interno del patto del Nazareno, e Lotti, braccio destro di Renzi, ha risposto: Brunetta di cosa parla? Se vuole, visto che non era presente alle riunioni, glielo racconto io cosa diceva Berlusconi di lui, quindi lanci di coltelli, insomma, veleni, eccetera, no? Allora, stiamo ai fatti, la legge Severino non è stata modificata, però il punto è che adesso c'è un importante appuntamento elettorale con le comunali. Io mi aspetto che le regole delle primarie, per esempio, ma anche delle candidature del PD, sia coerente con quello che dice la legge Severino. Quindi chi ha dei procedimenti in corso, non so, candidarli è un rischio, è lo stesso rischio che ha corso De Luca e ancora c'è dentro fino al collo, con un problema non solo di capacità ma anche di rispetto della legge. Quindi secondo me sul tema della legalità Renzi si sta giocando una partita importante, secondo me decisiva, perché sull'economia, sulla legge di stabilità, lui ha deciso di dare la caccia al voto moderato, quindi ha saltato lo steccato, è entrato nel campo del centrodestra, ma sulla legalità lui rischia, insomma, deve definire qual è il campo del PD, non può rischiare un pezzo di voti del centrosinistra e soprattutto non può lasciare tanto vantaggio a Grillo e al Movimento 5 Stelle, quindi deve essere più chiaro su questo aspetto. Lina, quindi secondo te stanno usando Renzi e PD due pesi e due misure tra Marino, che è stato scaricato un po' brutalmente, e De Luca, oppure sono due vicende diverse? Sono vicende completamente diverse, credo però che sul questo tema della legalità Renzi abbia spesso sbandato, cioè io me lo ricordo fare delle dichiarazioni molto, molto dure, per esempio sul ministro Cancellieri, me lo ricordo poi di nuovo garantista, poi di nuovo, insomma, ha oscillato un po' troppo, deve prendere una posizione, un principio e seguirlo, perché altrimenti, insomma, oscilla troppo e credo che invece la legalità sia un aspetto identitario dell'elettorato del Partito Democratico, ma è un aspetto dirimente anche per un premier che sta facendo lo sforzo di rilanciare un'immagine dell'Italia. Allora, l'Italia ha una reputazione da paese un po' corrotto, con una classe politica corrotta, con un senso del rispetto delle leggi un po' lasco, e quindi secondo me deve fare un lavoro anche su questo, e non mi pare che al momento sia stato fatto in modo sufficiente. Però evidentemente sempre nei pensieri di Berlusconi sentiamo questa specie di lapsus, anzi. Ciascuno di noi porterà quel che può portare, la grinta la porterà Matteo Renzi, la determinazione la porterà Giorgia Meloni. No, era sempre da Vespa, e a proposito di compattezza del centrodestra ha detto la grinta la porterà Matteo Renzi, evidentemente nei suoi sogni, nei suoi incubi, no, non lo so, però invece sentiamolo poi quando si riprende e come intende riuscire a rimettere, a compattare insieme appunto il centrodestra. Molto importante che il centrodestra si sia ricompattato, e questo ricompattamento significa che l'opposizione in Parlamento la faremo insieme. Nel corso del tempo si troverà anche il nuovo leader del centrodestra da presentare come candidato alla Presidenza del Consiglio. Tu approvi, Lina Palmerini, il fatto che Berlusconi abbia partecipato alla manifestazione della Lega contro il governo Renzi a Bologna e che adesso ci sia di nuovo questa intesa rinata con Salvini? Approvo, per carità, non mi permetto, però... Cioè è una mossa strategica giusta, secondo te, quella di Berlusconi? No, è una mossa obbligata, perché ormai Berlusconi non ha molte cose da dire, da un po' di tempo che non ha quasi niente da dire, cioè io non mi ricordo un'iniziativa, un'idea, una proposta, è un po' così al ricasco di quello che succede. succede, non poteva non andare alla manifestazione della Lega, è stato un po' costretto, e tanto prende tempo, però non mi pare che stia facendo politica, Forza Italia è abbandonata a se stessa, si è divisa non si sa in quanti pezzi, poi il futuro di questi pezzi io non so quale sarà, se ci sarà un futuro politico, cioè non è che lo vedo più roseo di quello di Berlusconi, per carità, però è il senso di uno sbandamento di un partito, quindi fa delle cose Berlusconi un po' così all'impronta, ma senza avere una strategia, senza avere un progetto, aspettando un po' quello che succede. Aspettiamo anche lui allora. Grazie Lina Palmerini. Prego. Ciao Lina, buona serata. Prima di lasciarci brevemente, poi sapete che ci sono altri ospiti, altre vicende da raccontare, volevo guardare ancora i vostri messaggi a proposito dei due pesi e due misure che forse per qualcuno sta adottando il PD e Renzi nei confronti di Marino e di De Luca. Stavo guardando gli altri messaggi, per come la vedo io, se si mette a governare la Campania, lì c'è nel paese delle meraviglie, penso che si riferisca a Marino, finisce che diventa Polpette, quindi una dose minima di irregolarità sono fisiologiche, sicuramente tra De Luca e il nulla di De Magistris 100 volte meglio il primo con o senza avvisi di garanzia, scrive Michelangelo al 349-238-6666, poi gli altri messaggi dopo sulla pagina Facebook di Effetto Note. Piccola pausa. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, vedo sempre i vostri messaggi che arrivano man mano tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. Questa sera vi chiedevo di giudicare un po' la posizione, l'atteggiamento del PD e di Renzi nei confronti di De Luca rispetto a quello che ha avuto nei confronti di Marino, ex sindaco di Roma. Dice Simone, scusate ma è normale che De Luca non sapesse che la gente intorno a lui complottava per farlo restare in carica, vero o falsa che sia il suo interessamento sui fatti, il giudizio non cambia. Antonio dice per due scontrini hanno fatto una cagnara, non che la cosa sia legale per questo signore che pare abbia aggiustato una sentenza, nulla, dice a proposito di Marino e De Luca, ma vogliamo parlare del giudice che ci fa ancora in carica, in realtà è stata trasferita, è stata aperta anche un'indagine su di lei. Massimiliano dice se la stampa italiana taccia di doppio pesismo una decisione come quella di Renzi, ovvero cacciare un incapace e tenere chi ha già dimostrato capacità, beh si capisce perché siamo messi così male, dice Massimiliano sulla pagina Facebook di Effetto Note. Vi ricordo velocemente le notizie più importanti perché poi dobbiamo passare alle novità sul giallo di Brescia. Economia, l'Italia cresce meno delle tasse ma il governo è fiducioso, il Consiglio dei Ministri stanzia fondi per Bagnoli, Terra dei Fuochi, Giubileo e Post Expo. De Luca indagato, Renzi dice ha il diritto dovere di governare la Campania, il governatore ribadisce io e la mia regione siamo parte lesa. Il processo escort a Bari, condannati a 7 anni e 10 mesi per condanna da 7 anni e 10 mesi per Tarantini, poi il giallo dell'imprenditore scomparso nel bresciano, ne parleremo tra pochissimo. L'ebreo accoltellato a Milano, prosegue la caccia all'uomo, il presidente Mattarella chiede di raddoppiare la vigilanza. Terrorismo, missile americano contro Jihadi John, sarebbe stato ucciso il boia dell'ISIS ma manca la conferma. Orrore in Germania, in una casa in Baviera trovati i corpi di 8 neonati, la madre in fuga sospettata di averli uccisi per la scuola. Oggi ci sono state manifestazioni, cortei in varie città, scontri e feriti a Napoli. Poi per l'allarme carni, Federalimentare sta valutando di citare per danni l'OMS. Dicevamo il giallo dell'imprenditore Mario Bozzoli, vi ricordate, scomparso nel bresciano a Marcheno lo scorso 8 ottobre. Ci sarebbe una prima svolta, cioè Giuseppe Ghirardini, l'operaio che la sera della scomparsa del suo datore di lavoro era nella fabbrica di Marcheno ed era proprio addetto al forno che alle 19.40 ebbe quella fumata anomala, è morto per avvelenamento da cianuro. Lui era stato ritrovato pochi giorni dopo la scomparsa dell'imprenditore vicino nella zona di Ponte di Legno, cadavere. Ne parliamo con Andrea Cittadini, giornalista del Giornale di Brescia. Ciao Andrea. Buonasera a voi. Bentornato. Senti, quindi la novità è che sarebbe morto, hanno fatto l'autopsia, hanno analizzato questo piccolo corpo che c'era nel suo stomaco, sembrava una pasticca, una bacca, e quindi è stato rilevato che è cianuro. Sì, esatto. Diciamo che dopo 3 settimane ormai dalla scomparsa di Ghirardini è arrivato questo esito importante. Inizialmente sembrava che l'esame tossicologico fosse completamente negativo, invece poi è emerso che all'interno dello stomaco era stato trovato questo corpo estraneo. Bene, all'interno è stato trovato del cianuro, così sarebbe morto appunto l'operaio avvelenato, e qui può prendere una svolta l'intera inchiesta, da capire se, ricordiamo che l'inchiesta per la scomparsa di Ghirardini è aperta alla procura di Brescia per induzione al suicidio, da capire qua se effettivamente qualcuno abbia obbligato l'operaio della Bozzoli a ingerire questo corpo estraneo o se abbia fatto tutto lui. Non è piccolissimo, va detto, perché si tratta di fatto di una sorta di capsula larga dal diametro di 3 cm e dall'altezza di 4 cm, non facile proprio da ingerire, ecco. Non è neanche, credo, l'idea più facile, l'idea più semplice per suicidarsi, perché sono questi poi i dubbi che ha comunque l'avvocato Marino Colosio, che è legale dell'ex moglie di Ghirardini, che comunque in questo momento sa che possono aprirsi degli scenari diversi rispetto a quelli ipotizzati oggi, però tante sono le domande. Perché uno decide di suicidarsi andando a 100 e passa chilometri da casa? Perché decide di farlo così in modo complicato, non prendendo il cianuro direttamente, ma utilizzando questo manufatto che poi sarebbe tutta una cosa artigianale, in un vetro particolare con all'interno un'anima in cianuro? Cioè, è molto elaborato, sicuramente con oggi si apre ufficialmente un giallo nel giallo, perché poi di pari passo oggi la procura di Brescia ha disposto lo svuotamento dei forni della fonderia di Marcheno, che resta sotto sequestro ormai dal 13 di ottobre. Si cercano tracce di Mario Bozzo, l'imprenditore che è svanito nel nulla, ma tracce al momento non se ne trovano. Senti, stavi raccontando tutti questi particolari, questi dettagli, Andrea Cittadini, a proposito della capsula, del fatto che lui sia andato così lontano, che sia stato un modo un po' complicato, elaborato per suicidarsi. Quindi, diciamo, gli inquirenti si capisce un po' che ipotesi più probabile stiano elaborando? Ma in questo momento in procura bocche cucite, proprio per la delicatezza della situazione, perché comunque diciamo che Ghirardini è stato trovato cadavere il 18 di ottobre, il 19 è stata fatta l'autopsia, solo oggi, quindi praticamente un mese di distanza, è arrivato questo esito, sicuramente tardivo, perché comunque viste le operazioni come sono state fatte, forse nessuno, anche perché inizialmente si era detto probabilmente morto per cause naturali, adesso poi c'è questo ribaltamento. L'ipotesi, ripeto, è ancora quella dell'induzione al suicidio, però gli inquirenti sono molto cauti. Sì, certo. Cauti, anche perché la prima reazione che ti dicono è però viene difficile pensare che uno ti obblighi a mandare giù una capsula di queste dimensioni, ma che poi non è neanche facile poi da ingerire. No, direi dalle dimensioni che hai detto direi decisamente di no. Vediamo quali saranno i prossimi sviluppi. È davvero una vicenda intricata, inquietante e nello stesso tempo tra virgolette affascinante, capire che cosa può essere successo in un mistero del genere. Grazie Andrea Cittadini, buon lavoro al giornale di Brescia. Allora, ciao Andrea. Buona serata, grazie. Ciao, grazie. Viabilità. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Scrive Massimo, continuano ad arrivare i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, dice Marino, mandato a casa per scontrini ma Renzi non tira fuori i suoi di Firenze, De Luca aveva ragione, la Bindi su De Luca, Renzi non doveva sostenere la sua candidatura, la colpa è sua dato che è capo del partito. Adesso vi ricordo velocemente le notizie più importanti della giornata, che sono quelle dal punto di vista economico dell'Italia che cresce meno delle attese, però il governo è fiducioso, ora serve uno sprint, e fiducioso anche Renzi su rispetto ai magistrati sulla vicenda De Luca, dice governi ne ha il diritto e dovere. Missile americano che avrebbe dovuto, diciamo, polverizzare il boia dell'ISIS Jihadi John, secondo le prime testimonianze, poi però manca la conferma sulla sua morte effettiva. 7 anni e 10 mesi a Tarantini nel processo per le escort portate da Berlusconi. E poi l'ebreo accoltellato a Milano e caccia all'uomo, e il presidente Mattarella chiede di raddoppiare, rinforzare la vigilanza e la prevenzione. E poi avete sentito le proteste contro la scuola, e il giallo della Bozzoli, dell'azienda Bozzoli, sarebbe morto per cianuro l'operaio Ghirardini. Europa 24 notte. Ne parliamo di immigrazione con Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Negli ultimi tre giorni ci sono stati due vertici, uno a Malta tra Unione Europea e Unione Africana, poi c'è stato il Consiglio straordinario a Bruxelles. Mi pare che Juncker fosse pessimista, il Presidente della Commissione Europea, che ha detto se andiamo di questo passo i ricollocamenti si finiranno nel 2101. No, è stato ottimista perché il New York Times aveva calcolato 750 anni, lui solamente 100, quindi ecco. Tutto sommato è stato discretamente ottimista, devo dire. Il bicchiere mezzo pieno che ha detto Renzi. Allora, senti, però in vista c'è un altro vertice, un summit che si farà tra Unione Europea e Turchia il 29 novembre, poi c'è il G20. Sì, diciamo il tema resta ampiamente sul tavolo, anche perché a Bruxelles ci sono riuniti i ministri dell'economia per discutere del budget. A quanto pare comunque i fondi extra mobilitati per i migranti il prossimo anno sono assolutamente confermati. Tra l'altro il budget complessivo europeo del 2016 sarà intorno ai 140 miliardi, all'interno anche dei fondi per la crisi immigrazione. Poi c'è da segnalare che però stasera ha parlato anche Angela Merkel in un'intervista televisiva alla ZDF, ha detto che ho la situazione sotto controllo. Perché qualcuno la rimprovera di cambiare un po' linea rispetto al suo partito dall'interno. Diciamo prima era stata rigida, poi è stata accogliente nei confronti degli immigrati. Ha cambiato linea perché a settembre ha detto accoglieremo 800.000 migranti, ha dato un segnale di porte aperte, poi pressata dal suo partito, soprattutto più che altro i bavaresi, la CSU bavarese, che è più a destra rispetto alla CDU di Angela Merkel. Tra l'altro non a caso la Baviera è il primo punto di approdo in Germania perché arrivano lì. E oggi in questa intervista alla ZDF Angela Merkel ha detto non si tratta di una questione fiducia, si tratta del fatto che lotto per la mia idea, e ha poi precisato i punti del suo piano: affrontare le cause che spingono i migranti a partire, trasformare l'illegalità in legalità e rafforzare il controllo ai confini esterni dell'Unione Europea. Ovviamente il segnale è che qualcosa è cambiato, la Germania l'ha dato, perché reintroducendo poi i controlli temporanei in barba a Schengen, comunque il segnale che ha ristretto un po' le maglie, almeno per quanto riguarda i profughi siriani, l'ha dato. Dicevamo di Turchia che l'Europa ha promesso 3 miliardi alla Turchia, ci sarà il vertice, l'hai detto tu, proprio sui migranti il 29 novembre, ma già sarà interessante vedere l'incontro Angela Merkel Erdogan questo weekend ad Antalya al G20, perché l'immigrazione sarà comunque un tema. Dalla Turchia partono le rotte dei migranti e la Turchia ha circa 2 milioni di profughi sul suo territorio. Ci aggiorneremo la settimana prossima su quello che sarà il vertice. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ritorniamo su Bruxelles, ma per la partita amichevole della nazionale col Belgio. Come sta andando Dario Ricci, che sei laggiù, lassù? Sì, buonasera, siamo al 50° di gioco, risultato di 1-1, Italia che, io ricordo, era passata in vantaggio al terzo dopo una bella azione corale con un tocco sotto misura di Candreva. Al 13° è arrivato il pareggio del Belgio su calcio d'angolo, il colpo di testa di Vertonghen, ma il momento più importante della serata, direi Roberta, è stato al 39° del primo tempo, quando è partito, come previsto dal cerimoniale, un applauso spontaneo da parte dell'intero stadio. La partita si è fermata, sui maxi schermi sono scorsi i nomi delle 39 vittime della tragedia della Zell, che questa partita commemora a 30 anni di distanza. Un momento semplice ma toccante, partecipato da tutto lo stadio, un monito a non dimenticare quello che è stato, tutte le persone morte per una partita di calcio. Grazie Dario Ricci, ciao da Bruxelles, ciao. Grazie Dario. A voi. Vogliamo sapere se questo caldo di questo novembre, il più caldo da 50 anni, continuerà. Lo ce lo dice Paolo Corazzon di Trebi Meteo, il nostro portatore sano di sole. Buonasera Roberta. Beh, guarda, in effetti novembre è molto anomalo, un'estate di San Martino che praticamente è diventata una stagione quest'anno. Andiamo avanti ancora alcuni giorni, in effetti guarda, la svolta vera arriverà domenica 22, quindi ancora 8-10 giorni con tempo tranquillo, anche se purtroppo la nebbia nei prossimi giorni, già in questo weekend, tornerà protagonista soprattutto in pianura padana, ma non solo nebbia, in alcune zone costiere delle regioni tirreniche endemiche, Liguria, Toscana, Sardegna, anche la Campania, nuvole basse renderanno comunque il cielo grigio, quindi insomma un weekend discreto, senza precipitazioni, ma in alcune zone appunto piuttosto grigio, dove invece splenderà il sole, weekend più che mite, sfioreremo ancora una volta i 20 gradi. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia, ciao Paolo. Grazie, buona serata. Alle 22 ci sentiamo.